carico come una pila, come un alcolizzato senza il suo goccio di tequila, bisognoso di ricaricarmi nel 2000, tu hai acceso la mia vita come una scintilla. Il mio migliore amico mi ha curato, pet therapy, per questo t'ho sempre considerato my medicine, il mio impegno a tempo pieno, l'unico pensiero, la mia via d'uscita, il più potente siero. E grazie a te, se qualcosa brucia ancora, se in bocca sento quel sapore amaro che oggi mi divora, ma mi rialzo perché sento il tuo respiro, su di me la tua presenza fa scorrere la viro. Ho perso l'anima ma non le rime, dedicato a te l'essere, perché ancora verso lacrime, guidando la mia mano la parola amore prende forma, il suo significato è chiaro nel mio cuore, la tua orma. Il mio impegno a tempo pieno, l'amore verso chi mi ama per quello che sono, chi ha salvato chi, semplicemente ci siamo trovati, tu bisognoso, io di più, esseri disarmati. Troppo tempo libero mi assale, da quando vivo senza la mia spina dorsale. Chi mi sta vicino dice che poi passa, intanto faccio compagnia a questa carcassa. La cura a tutto questo sarebbe un sorriso, da quando mi hai lasciato solo manca sul mio viso. È il momento di reagire, terapia degli animali, un'altra occasione per curare via tutti i mali. Ci sono scelte che si fanno all'infinito, se cerchi il vero amore prendi un cane, il tuo miglior amico. L'amore cura chi ci crede e tu di sicuro ne sei il suo degno erede. Quindi Chuck si gira, nuovo episodio, questo amore che prende la mira annientando l'odio, ringraziando tutti quegli incroci di destini che mi hanno allontanato da troie e da cretini. Il mio impegno a tempo pieno, l'amore verso chi mi ama per quello che sono, chi ha salvato chi, semplicemente ci siamo trovati, tu bisognoso, io di più, esseri disarmati. Lassù qualcuno mi ama e questo è il motivo per cui riscrivo la trama. Il destino tifa per me a più riprese, Chuck si gira per un finale ricco di sorprese. Quello che c'è tra noi si chiama imprinting, un sorriso mi rilassa, questo è il mio lifting. Come ho potuto pensare di rimanere solo, che una donna prendesse il suo ruolo, seconda possibilità. Non l'ho fatta scappare, mi ha rincorso, acciuffato, ora riprendo a lottare. C'è ancora posto per l'ennesima prova d'amore, Wichak, il mio spacciatore di buon umore. Perché l'amore non basta mai, ho un solo impegno verso chi lo ricambia, togliendomi dei guai. Regista delle mie giornate, colonna sonora a nuove lunghe passeggiate. E ritornando al fatto che per voi è solo un animale, no, non lo tagli, questo cordone ombelicale. Mentre si fa largo, un pensiero alquanto strano, dall'asso ancora una volta, Ronnie mi ha dato una mano. Il mio impegno a tempo pieno, l'amore verso chi mi ama per quello che sono, chi ha salvato chi, semplicemente ci siamo trovati, tu bisognoso, io di più, esseri disarmati. Lassù qualcuno mi ama e questo è il motivo per cui riscrivo la trama. Il destino tifa per me a più riprese, Chuck si gira per un finale ricco di sorprese.